La dottrina del peccato originale. Da un punto di vista storico, la dottrina sul peccato originale si è sviluppata fin dai primi secoli. Fondamentale è l'insegnamento di Agostino, che ha avuto grande influsso in Occidente. Adamo, con il suo peccato, perse per sé e per l'intera umanità il dono della giustizia originale, cadendo in uno stato penoso di inimicizia con Dio e con se stesso, di incapacità di superare il male. E solo la salvezza ottenutaci da Cristo ha permesso di superare questa disgrazia. Per comprendere veramente il contributo agostiniano bisogna tener presente che si tratta della prima sintesi dottrinale in proposito. Egli legge tutto dal punto di vista cristologico e nel confronto con Manichei e Pelagiani. Questi ultimi prendono nome da Pelagio, monaco e asceta bretone vissuto a cavallo tra il IV e il V secolo, il quale aveva affermato che l'uomo può condurre una vita moralmente retta senza l'assoluta necessità dell'aiuto e della grazia, e che il peccato di Adamo non è altro che un cattivo esempio. Tutto ciò rendeva superflua l'incarnazione del Verbo e l'intera economia della salvezza. La grazia di Dio era, per Pelagio, solo un aiuto supplementare esterno, destinato solo ai più deboli. Agostino reagì mostrando la corruzione della natura umana e presentando la redenzione come una ricreazione. Il pericolo del pelagianesimo è particolarmente attuale nel mondo odierno, abituato a fare affidamento sui propri mezzi. La stessa affermazione della bontà del creato e del ruolo delle virtù umane nel disporre all'incontro con Cristo, vero uomo e vero Dio, non può mettere in ombra il carattere teologale della fede e l'assoluta impossibilità di salvezza se non nel dono, per grazia. Durante il Medioevo non ci furono problemi particolari riguardo alla dottrina del peccato originale, che fu sviluppata in senso più positivo rispetto all'elaborazione agostiniana da Tommaso e Anselmo. I problemi iniziarono con la Riforma protestante, poiché Lutero e Calvino consideravano l'uomo totalmente corrotto dalla caduta, pervertito e privo di libertà. In tale stato l'uomo peccherebbe in tutto ciò che compie con la propria volontà e questa corruzione sarebbe intrinseca e inguaribile. La redenzione operata da Cristo agirebbe allora a un livello forense ed esteriore, ma non toccherebbe l'uomo in se stesso ed egli non verrebbe veramente ricreato. Così, nella concezione protestante, il peccato originale viene identificato con la concupiscenza, considerata come invincibile, come un'innata tendenza verso il basso. La grazia del battesimo non guarirebbe l'uomo, ma l'uomo sarebbe salvato per la sola fede, in virtù dei meriti di Cristo, dall'esterno, come un vero colpevole assolto da un tribunale. Non si riconosce, invece, il fatto che Dio trasforma davvero il colpevole in giusto, ricreandolo dal di dentro. Il Concilio di Trento reagì con forza e si occupò del tema in una delle prime sessioni, la quinta, nel 1546. Tenne presente in positivo gli insegnamenti agostiniani e quelli più ottimistici di Tommaso ed Anselmo e in negativo anche la posizione degli umanisti rinascimentali come Erasmo e Zwingli, che consideravano Cristo solo un maestro morale. Il testo del Concilio si sviluppa in 5 canoni, dei quali i primi 2 ricalcano canoni corrispondenti del secondo Concilio di Orange 529. In sintesi si afferma che 1. Il peccato originale è evento storico che ha causato 5 effetti: a) perdita della santità e della giustizia, b) ira divina, c) morte eterna, d) schiavitù al diavolo e danno per l'uomo nell'anima e nel corpo. 2. Il peccato originale commesso da Adamo diventa il peccato originale degli uomini, descritto come morte dell'anima, similmente a ciò che avviene con la morte del corpo. 3. Il peccato di Adamo è trasfuso in tutti per propagazione e non per imitazione, quindi si trova in ognuno come proprio. Si rifiuta la concezione pelagiana del peccato originale come mero cattivo esempio o semplice imputazione. 4. Quindi si riprende la dottrina formulata nel Concilio di Cartagine del 418, il più antico concilio della Chiesa, nel quale si tratti del peccato originale, per riaffermare contro gli anabattisti il battesimo dei bimbi. 5. Si nega l'affermazione di Lutero che la concupiscenza sarebbe in se stessa peccaminosa, da questi fondata su alcuni testi fortemente antipelagiani di Agostino. Il Concilio afferma che il battesimo toglie dall'uomo ogni ragione di inimicizia con Dio, anche se rimane il disordine introdotto dal peccato, che inclina ad esso, ma che non è in sé peccato. Anzi, la resistenza a tale disordine diventa addirittura meritoria nella lotta per diventare santi. Si nota la ricerca di equilibrio nell'affermare con tutta la forza la gravità e la serietà del peccato originale, evidenziando nello stesso tempo che la natura umana non è totalmente corrotta. Questo dogma ha quindi un contenuto estremamente positivo, perché afferma la bontà radicale dell'uomo. L'immagine divina che lo costituisce è più forte del male. Ciò si ricollega allo stato di amicizia con il Creatore che ha caratterizzato l'inizio della creazione, uno stato la cui memoria permane come sorgente di speranza e garanzia di vittoria in tutta la storia.